ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su aruba.it. Buongiorno ragazzacci, siete fantastici, non saprei vivere senza Maniera ormai e nemmeno senza te, Milan. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Il problema, cara ascoltatrice, è che non rinnovando il contratto a Leonardo Manera non so come si farà. È un momento anche drammatico, come Leonardo vi sta raccontando in questi giorni, e che lui sta vivendo con dramma, io non con altrettanto trasporto, essendo non dotato di particolare empatia nei suoi confronti, ma è la dura legge della vita, bisogna cominciare ad attrezzarsi a riguardo. Buongiorno comunque cari ascoltatori, 800240024 è il numero per intervenire in diretta se volete, 349-238-6666 invece è il numero per i vostri WhatsApp audio eccetera. Vedo l'Alpino che ha pronto qualcosa in canna, io ti vedo con quella faccia da furbetto anche se c'è la mascherina lì. Apertura per Çalhanoğlu che ha fatto spazio, carica il destro Çalhanoğlu, il 3-1 del Milan, mi fa la firma di l'ennesima vittoria del Milan grazie al kebab umido, come lo chiamo io, faccia da kebab umido, perché è buono come un kebab che ti è caduto nell'acqua, lo mangi lo stesso ma ti lascia un po' questo a Çalhanoğlu. Per me Lorenzo Nespoli, prima redazione, mi ha detto che è un leader. Io ho riso per un quarto d'ora, ti ringrazio, ho avuto anche dei dolori addominali. Apertura per Çalhanoğlu che ha fatto spazio, è un leader, io sono un frate trappista, però va bene, va bene così. 3-1 del Milan, la firma di Hakan Çalhanoğlu. Allora, non se ne può più delle vittorie del Milan, dovremmo iniziare a perdere perché insomma, una vittoria dietro l'altra, anche Danilo Trani esulta lì in regia insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi. Siamo qua cari ascoltatori, ci siamo fino alle 11 con tante tematiche da affrontare. Oggi parleremo soprattutto del fatto che gli italiani non fanno più figli, questo lo certifica l'Istat, ma parleremo anche della vicenda di questa legge in discussione su l'omofobia, la omotransfobia, andando a vedere cosa è successo in un comune, a Lizzano, in provincia di Taranto. Poi torneremo sulla questione del nostro eremita di Budelli, Mauro Morandi. Insomma, abbiamo tante cose da affrontare. Vai, Alpino! Enthusiasm about the future. Mi scrivono: scenderemo in piazza Udine per Leonardo. E effettivamente non è male, c'è piazza Udine dove vive Leonardo Sio Bonetti, che arriverà tra poco alle 9:30. E... Amen. Insomma, se dovremo fare a meno delle sue prestazioni ben pagate da settembre, ce ne faremo una ragione, come si suol dire. Oh ragazzi, non parlo della vicenda autostrade perché giustamente ne ha parlato a lungo Simone Spezia con Maria Latella, c'era anche il nostro direttore Fabio Tamburini. Io sottolineo solo una cosa: se cercate di trovare attraverso i titoli dei giornali come sia finita questa vicenda, cioè Benetton o 5 Stelle, Benetton o governo, chi ha ottenuto di più, è stupendo, perché dalla lettura dei titoli dei giornali non si capisce di fatto nulla. Giornale che vai, verità che trovi, perché per il Quotidiano Nazionale vincono i 5 Stelle, titolo di prima pagina sulla vicenda Benetton. Per Repubblica i Benetton denunciano, è un esproprio. Per La Stampa, titolo di prima pagina, nessun esproprio ai Benetton, il ministro De Micheli. Per il Fatto Quotidiano i Benetton in fuga, per La Verità Conte fa un regalo ai Benetton. E allora uno dice, ma che, com'è finita questa vicenda? E leggete poi sul Sole 24 Ore, leggete tutti i commenti, è una vicenda, è una partita non ancora chiusa chiaramente. Il Corriere della Sera alla fine scioglie tutti i dubbi. Autostrade, i dubbi. Ecco, questo, la svolta e i dubbi, titolo di prima pagina. Insomma, uno fa una carrellata di titoli e non capisce come sia andata a finire questa vicenda. D'altronde questo è il paese nel quale il giorno dopo le elezioni o il giorno stesso delle elezioni tutti hanno vinto e nessuno ha perso, anche se le elezioni sono voti e quindi numeri e dovrebbero essere indiscutibili, come indiscutibile è la matematica e che uno più uno fa due. Comunque non è così. Allora, io voglio introdurre questo tema, che è un tema come al solito molto complesso, perché quando si titola "Gli italiani non fanno più figli", il dato c'è, lo ha certificato l'Istat appena due giorni fa. Nel 2019 420.170 nuovi nati, abbiamo battuto il record negativo dell'anno precedente e siamo ai minimi storici dal 1861. Dal 1861. Cioè, si facevano più figli quando c'erano le guerre, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Siamo ai minimi storici. Allora vorremmo cercare di capire perché non si fanno più figli. Il tema è complesso, come al solito, quindi risposte semplici non ne avrete. Magari spunti per riflettere, sì, voglio sperare. Anzi, ne sono sicuro. Introduco il tema con una notizia di cronaca che mi ha colpito sul quotidiano nazionale. Discriminate le hostess in maternità. Il giudice condanna l'INPS a risarcirle. È una vicenda che riguarda diverse hostess o assistenti di volo, se le volete chiamare così, che hanno denunciato in massa, sono circa 60 che hanno denunciato l'INPS, perché dicono: in maternità abbiamo avuto un indennizzo più leggero, meno corposo di quello che ci spettava. Hanno fatto causa, le prime sentenze sono vinte e mi ha colpito il racconto di Loredana Nocito, una di queste assistenti di volo, che dice: beh, la maternità dal punto di vista personale è un momento bellissimo, certo da un punto di vista economico è stato un grande sforzo, sia dal punto di vista economico e sia evidentemente per il rischio di perdere il lavoro e fare i salti mortali. Per carità, non è il primo punto da cui voglio partire con il professor Giampiero Dalla Zuanna, che insegna demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche a Padova. Buongiorno professor Dalla Zuanna, grazie di essere qui. Buongiorno a lei. Allora, lei è uno dei sostenitori di coloro che dicono, io ho letto in varie interviste, i quali dice: è lo Stato che deve aiutare concretamente le famiglie. Mi ha colpito scoprire dalle sue parole che in Italia lo Stato spende la metà rispetto a quanto si spende in media per l'Unione Europea, nell'Unione Europea, per sostenere le famiglie. Ci aiuta a capire qualcosa di più con qualche numero? I numeri li ha già detti lei. Nei paesi ricchi, specialmente nei paesi europei, c'è un legame fortissimo fra la quantità appunto di soldi attraverso vari strumenti come il fisco oppure attraverso contributi diretti che vengono dati alle famiglie con figli e il numero di figli che vengono messi al mondo. L'esempio più eclatante è quello della Germania, che 10 anni fa aveva una fecondità più bassa di quella italiana e ha modificato poi in modo radicale le sue politiche fiscali verso la famiglia e ora ha una fecondità che è superiore alla media europea e di parecchi punti più alta di quella italiana. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che nel mondo postmoderno la decisione di aver figli è fortemente legata anche naturalmente all'aspetto economico, cosa che invece l'andamento era completamente diverso nelle società agricole, eccetera. Ma ora siamo andamento economico, e lei dice i contributi, gli sgravi fiscali, l'esempio mi pare di capire appunto è quello della Germania, come lei ci ha detto. Ieri leggevo un interessante commento di Alessandro Robecchi sul Fatto Quotidiano. Alessandro Robecchi è un intellettuale, scrittore, e diceva: beh, però nessuno che pone l'accento sul fatto del lavoro. Cioè, oltre agli aiuti economici, gli incentivi, il lavoro che spesso è precario, spesso è complicato, spesso è instabile, soprattutto se si ha 25, 26, 30 anni. Cioè, non crede che anche al di là dell'aiuto, lo Stato ti dice: ti posso dar questo, ma perché due persone dovrebbero, una coppia dovrebbe fare un figlio se nessuno dei due ha un lavoro che dà una sicurezza? È la seconda grande gamba, diciamo, della fecondità. Cioè, uno dove c'è disoccupazione, dove c'è incertezza specialmente nel lavoro, la gente figli non ne fa. Tra l'altro questo accade anche nelle zone più ricche nel paese, coltiva il dato visto ieri proprio del Veneto, dove c'è fra le donne di 47 anni il 25% è senza figli, a un livello altissimo, insomma, forse più alto del mondo. Ecco, quindi qui è proprio un problema di, come diceva prima lei citando il caso delle hostess, proprio di una società che si è ancora organizzata come se fossimo al modello, come si chiama, male breadwinner, no? Cioè dell'uomo che guadagna e la donna che sta a casa, per la casalinga. Ecco, quindi invece l'assicurazione migliore per la qualità della vita e anche per la qualità anche dal punto di vista economico, ma non solo, di un bambino, è che entrambi gettono di lavoro. Per questo bisognerebbe fare tante cose, per esempio lei suggerisce perché alle scuole medie non c'è il dopo scuola, non c'è l'orario allungato nel pomeriggio, se due lavorano un ragazzino di 10 anni... Abbiamo un tempo scuola che è incredibile, cioè, se noi portassimo la scuola, togliamo pure la scuola al sabato quando i genitori spesso non lavorano e mettiamo però la scuola almeno media fino alle 3, almeno 4 di pomeriggio, per esempio, no? Questo può fare anche un po' i conti, magari togliendo un anno di scuola alle superiori, quindi arrivando ai livelli di cosa accade in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove finiscono le superiori a 18 anni, e togliendo la scuola al sabato, tenendo uguale le ore, potremmo arrivare fino a stare a scuola fino alle 16, tanto per dire. Sì. Dico, nel senso, proprio questo è il significato. Noi abbiamo ancora una società organizzata, come ai tempi del baby boom, quando siamo nati noi, in cui le donne stavano a casa e non c'era sensazione di povertà quando lavorava una persona sola. Adesso è cambiato tutto. Ecco, quindi è necessario organizzare. Quindi sono questi i due aspetti di fondo: organizzare la società e il tempo delle famiglie in modo da renderlo compatibile con la figli, e non abbiamo parlato poi dei servizi per la prima infanzia, sì. Però non bisogna neanche enfatizzare troppo il problema del nido, eccetera. Perché lì lei dice i nidi che costano tanto, perché non è da enfatizzare troppo, secondo me? È da enfatizzare, però alla fine si rischia di enfatizzare poco i tempi dell'adolescenza e i tempi della preadolescenza, dove spesso i bambini sono lasciati a casa quando sono soli, cioè bisogna guardare tutto l'arco di vita. Non è un caso che ora stia discutendo dell'assegno unico, che proprio oggi va in Parlamento sperando che sia approvata alla Camera, proprio perché c'è l'idea che lo Stato deve essere accanto appunto ai cittadini, non solo con i soldi ma anche con tutto il resto, fino a quando i figli sono a carico. Ripeto, dove questo si fa, parliamo della Germania, della Svezia, anche abbastanza del Regno Unito, per non parlare della Francia, che è il paese che lo fa nel modo più importante. I figli arrivano, quindi non è vero che i figli sono incompatibili col mondo postmoderno. La gente i figli li vuole, trova nei figli la felicità. Poi c'è un altro aspetto, se posso, dottore, sì? che è molto importante. Bisogna organizzare le cose in modo che ci sia anche per i genitori il tempo di stare con i figli. Quello che chiedono i genitori è anche, non chiedono solo il lavoro sicuro, sì. Ma anche crescere, avere un po' di tempo. Senso avere figli e poi vederli solo alle 8 di sera. Cioè anche questo è vero. Qui l'esempio più interessante è il modello della olandese, che lo chiamano di un lavoro e mezzo, no? Cioè l'idea che quando ci sono bambini sia un diritto, diciamo, dei lavoratori poter avere dei tempi, ovviamente perdendoci un po' di reddito, no? Sì, chiaro. Però sono scelte che si fanno per poter stare con i figli. È interessante vedere che in Olanda all'inizio questo lo prendevano quasi solo le donne, e adesso invece lo prendono in gran misura anche gli uomini. Sì. Vedo, ovviamente, certo, gli ascoltatori, quando si tratta di questo tema, li affrontiamo tante volte, ognuno giustamente vede la sua parte. Un ascoltatore ci dice: insomma, guardate che due figli, 3 anni al nido costano migliaia di euro. Certo, questa, come ha detto il professor Dalla Zuanna, è uno dei problemi, sicuramente. C'è l'altra grande questione, che c'è ogni anno certificata dai dati, invece, che gli stranieri che sono in Italia fanno più figli di noi. Devo dire che anche loro, se ho capito bene, cominciano a rallentare, però non rallentano tanto quanto gli italiani, e comunque quest'anno si è registrato un più 16% di immigrati che fanno figli. E non è che, professor D'Azuana, gli immigrati vivano generalmente nell'oro rispetto agli italiani, no? E allora come si spiega questo? C'è un dato interessante che abbiamo visto confrontando la provincia di Trento e di Belluno. Sapete che a Trento la fecondità è abbastanza più alta rispetto alla Val Veneto, in cui anche gli stranieri a Trento, per le stesse nazionalità, fanno più figli degli stranieri che stanno a Belluno. Cioè, questo vuol dire che... Dove si sta meglio, anche gli stranieri fanno più figli, come fanno più figli gli italiani. Quindi non è che gli stranieri fanno figli così, perché solo per motivi culturali fanno più figli, eccetera. Del resto era interessante che gli italiani che andavano in Australia facevano meno figli rispetto agli australiani, cioè portavano il modello dell'Italia in Australia. Quindi c'è questo aspetto culturale, no? Cioè in cui si porta l'abitudine del passato. È vero che molti stranieri vengono da paesi dove si fanno pochi figli, la Romania ha la fecondità più bassa dell'Italia, per dire, e altre cose di questo. Cioè, il mondo è molto cambiato rispetto a una volta, da questo punto di vista. Ormai tutto il Nord Africa, la Tunisia ha una fecondità più bassa della Francia, tanto per dire. Cioè, per cui in realtà questa idea degli stranieri che fanno tanti figli è vero solo per quelli che vengono da alcuni paesi particolari. Sì. Ecco, mentre in realtà anche loro hanno avuto un rapido adeguamento alla fecondità del paese in cui vanno. Cioè, se voi andate a vedere la fecondità che hanno, che sono i marocchini, piuttosto che anche i nigeriani che vengono in Italia, è molto più bassa rispetto alla media del Marocco o alla media della Nigeria. Non ci salveranno gli stranieri. No. Professor Dalla Zuanna, c'è altro grande tema. Quando si parla di questi argomenti, è un gran classico, è un rappresentato da diverse persone che in realtà vedono questo calo demografico e dicono: oh, meno male, cioè non ci vedo nulla di male, siamo troppi al mondo, le risorse non basteranno per tutti, ci vorrebbe proprio un contenimento delle nascite. Allora, c'è una risposta netta a dire è bene o è male il fatto che non si facciano più figli? Ma guardi, il problema non è tanto sulla quantità di popolazione. Nessuno studio serio ha potuto stabilire il cosiddetto ottimo di popolazione, no? Lo cercavano i demografi, poi ci hanno rinunciato perché hanno visto che è impossibile stabilire esattamente quale sarebbe il numero giusto di persone sul territorio, eccetera. Tant'è vero che vediamo territori affollatissimi che stanno benissimo, pensi a Singapore per esempio, sì. O territori dove abita pochissima gente, dove sono nella miseria più nera, cioè, quindi non è questo il discorso. Il problema è bene guardarlo sul caso specifico. Nel caso dell'Italia il problema non è tanto la diminuzione della popolazione, anche se tante scritte vendersi che troviamo nei paesi, nelle case, è legata alla diminuzione della popolazione, cioè, non è che sia legato a cose tanto astratte. Ma il problema grosso è la rapidità dell'invecchiamento. Eh sì. Cioè, quando questo comporta dei costi terribili. Mi pare che sia uscito sui giornali l'altro giorno che in alcune zone abbiamo un numero di pensionati uguale al numero di lavoratori. È evidente che questa cosa è insostenibile. E tra poco sarà invertito, ci saranno più pensionati che lavoratori, secondo le tendenze. No, un'altra cosa che potrà accadere, cosa succede se non ci sono bambini? L'abbiamo già visto, negli anni fine degli anni 80, inizio anni 90, facevamo gli stessi discorsi che stiamo facendo adesso, no? Perché è stato allora che c'è stato il primo grande calo delle nascite. Però le previsioni sono state smentite perché c'è stato grandissimi flussi migratori. Ora, cosa accadrà se ci sarà, come tutti ci auguriamo, uno sviluppo economico vivace e non ci saranno i lavoratori? Arriverà gente da fuori. Perché? Perché è così. Perché per i prossimi almeno 10, 20, 30 anni ci saranno ancora popolazioni in giro per il mondo. Cioè, è quasi un'equazione: se ci sarà nuovo lavoro ma non lavoratori italiani, i lavoratori da altri paesi andranno dove c'è il lavoro, cioè verranno qui in Italia. L'abbiamo visto anche nel piccolo col lockdown, no? Quando non c'era nessuno che raccoglie i meloni o raccoglie i pomodori, cioè a un certo punto in qualche modo la gente la si cerca di fare arrivare, se no il lavoro resta, non viene, non si trova nessuno e tutto il meccanismo si ingrippa. Sono uscite proprio ieri, mi pare, le previsioni di Lancet, molto, cioè, è un giornale famoso, no? Ha pubblicato delle previsioni alternative della popolazione, che sono molto interessanti, in cui si vede che l'Italia, appunto, dovrebbe arrivare a avere 30 milioni di persone nel 2100, anche se ovviamente sono previsioni un po' strane, no? Sono 80 anni che sa cosa ci sarà in questo mondo, però insomma, con la popolazione che dimezza e nello stesso tempo avere l'Italia scenderebbe fortissimamente come si dice, nelle classifiche della quantità di reddito complessivo. Sì, sì. Ecco, quindi l'Italia è altro che il G8, cioè sarebbe proprio ormai un paese secondario e certo, di importanza molto relativa da un punto di vista, perché i numeri contano. Ma infatti lei coi numeri ci vive come qualsiasi demografo. Io, professor Dalla Zuanna, mi devo fermare. Il professor Giampiero Dalla Zuanna, che ringrazio, ripeto, è docente di demografia al Dipartimento di Scienze Statistiche all'Università di Padova. Ripeto, non ci sono risposte nette, come ci ha detto anche lui sulla questione. Non c'è il numero ottimo di persone che devono popolare questo pianeta per stare in equilibrio, anche perché poi è tutto squilibrato, appunto. Non è che le risorse sono distribuite in maniera equa e precisa in tutto il mondo, così come la popolazione non è distribuita mediamente in maniera precisa in tutto il mondo in base alle risorse. Ci sono zone con grandi risorse e poca popolazione e viceversa. Sta di fatto che c'è un altro dato certificato dall'Istat, che è un altro dato significativo: il boom di italiani sempre più in fuga verso l'estero, italiani che vanno via, come ci scrive un ascoltatore, non c'è lavoro in Italia, o meglio, ci sono paesi dove vicini a noi dove il lavoro è molto più facile da reperire, quindi questo è un altro problema. E ovviamente chi è che va via? In genere quelli più giovani, quindi c'è anche un depauperamento delle classi generazionali più giovani, e sono tutti elementi che non contribuiscono a qualcosa di positivo. Va bene, andiamo un attimo in pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Boys like him don't shine so bright. Soon as I see the dust settle, he's out on the town trying to find trouble. Benetton o 5 stelle? Di sicuro sai cos'è Milan? Che me l'ha ciappato in del kill noter, come sempre. Se dovete fare i figli e poi parcheggiarli a scuola fino alle 3-4 del pomeriggio, ecco, non fate i figli, fanno bene gli italiani a non fare i figli. Caro Alessandro Milan, secondo me in Italia gli stranieri fanno più figli di noi, non perché hanno più possibilità economica di noi, anzi molte volte l'hanno anche di meno. Secondo me fanno più figli perché hanno più coraggio. Allora, 9:35 minuti, è arrivato e godetevelo, perché è una delle ultime volte. Leonardo Manera, buongiorno. Hai firmato gli ultimi due giorni? No, non ho firmato il contratto perché nessuno me l'ha proposto. Non è che vado in giro a chiedere qui in redazione a Guido Scotti. No, Guido Scotti non c'entra niente. No, Guido Scotti è il capo occulto di Radio 24. Vabbè. So che tutti si rivolgono a lui per dei pareri, per degli aumenti. E dei contratti. Per i contratti. E lui è, insomma, è come Richelieu, no? È il Richelieu di Radio 24. Sì. Vabbè. Sono le 9:36 minuti. Noi fino adesso abbiamo parlato di bambini che non si fanno più, l'Istat che certifica questo. Abbiamo chiamato l'ospite, anzi sono due, per altri motivi. Però come faccio a non salutarla ricordando il libro, che è uno dei libri che ha scritto, che è uno dei libri che al mondo, voglio dire, i bambini, i ragazzini più amano, i ragazzini e le ragazzine. Francesca Cavallo, che buongiorno Francesca e grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Francesca Cavallo è conosciuta tra le altre cose anche perché è una delle due autrici di Storie della Buonanotte per bambini e ribelli, cioè non so se vi rendete conto, insomma, quante copie avete venduto di questo libro? C'è una. Quasi 5 milioni, cioè siete quasi a 5 milioni, beh, ma è vero? Ma davvero? Non ci credo. Mia figlia vive, ha vissuto 5 per milioni anni di copie. Sì, sì, sì. Mia figlia ha vissuto solo per quello, cioè a leggere a una certa età. E quindi complimenti. Però l'abbiamo chiamata Francesca Cavallo per una vicenda che esula dalle sue opere letterarie. Con lei c'è anche il sindaca di Lizzano, Antonietta Doria. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, cosa è successo? È successo che lì a Lizzano c'è un parroco, Don Zito, che ha deciso di fare un rosario perché non passi la legge quella Scalfarotto Zan, la legge tanto discussa contro l'omo transfobia. E Francesca Cavallo, lei si è arrabbiata, cioè nel senso che ha scritto un post dicendo non va bene questa cosa. Che cosa non le piace di questa iniziativa del parroco? Ma il problema dell'iniziativa del parroco è stata che è un'iniziativa che discrimina pesantemente, prima di tutto, tutti i membri LGBT della parrocchia, perché spesso si crede che ci sia uno scontro tra civiltà, ma la maggior parte delle persone che poi si sono ribellate, me inclusa, a questa iniziativa, sono persone, io in gioventù ho molto frequentato quella parrocchia, adesso non vivo più in paese, ma molte delle altre persone che poi sono venute con me a manifestare fuori dalla chiesa sono membri della parrocchia, membri del coro parrocchiale, quindi non è stata una cosa che dall'esterno si è andati a protestare quello che succedeva in una parrocchia, e che l'iniziativa di questo sacerdote ha spaccato la comunità. E normalmente, insomma, ci si aspetterebbe che un sacerdote facesse l'opposto. Sì, a quel punto è nato un po' un movimento di protesta fuori la parrocchia, quindi mentre c'era il rosario dentro, ed è arrivato anche il sindaco, appunto Antonietta Doria, e perché sono arrivati anche i carabinieri che a un certo punto volevano identificare i manifestanti. Allora lei ha detto identificate i fedeli, insomma, sindaco, qua sembra un po' una storia. Chiamati dal parroco. Sì, dal parroco. Beh, perché evidentemente dice qualcuno sta disturbando il rosario, evidentemente. Non lo so, sindaca, lei come da che parte sta in questa storia? Allora, non penso che bisogna essere da qualche parte. Si sta sempre dalla stessa parte, che è la parte dei diritti civili dei cittadini, dell'individuo più che dei cittadini. Quindi l'individuo ha dei diritti e io sarò sempre dalla stessa parte, anche se in realtà sarà uno solo, due o tre cittadini che hanno questo diritto. I diritti sono uguali per tutti, su questo dobbiamo battere tutti. E quindi a me è sembrato soltanto strano, e l'ho ripetuto più volte, che una cosa naturale potesse diventare eccezionale in questa nazione. Perché a me è sembrato naturale, una volta che sono stata chiamata, perché in realtà i carabinieri stavano prendendo le generalità di queste poche persone, perché poi sono aumentate, ma perché in realtà c'è stato poi dal punto di vista di WhatsApp o altro, non vi chiamo, diciamo, inizialmente erano 4-5 ragazze che stavano fuori ad aspettare l'uscita per capire cosa stava succedendo dentro, in maniera molto rispettosa. Sì, quindi, beh, dentro no. Cosa stava succedendo? Una preghiera, cioè il rosario. Era un rosario. A favore della famiglia tradizionale. Quindi io volevo adesso spiegato, io sono una cattolica, quindi voglio spiegato da chi è più cattolico di me a questo punto, cosa significa famiglia tradizionale. Per un parroco per la chiesa è abbastanza chiaro, no? Un uomo la e una donna. È unica, è un luogo d'amore dove si ama, si cresce e si cresce in maniera sana. Io sono solo d'accordo su questo. Sì. Ovviamente questa mia idea di famiglia è anche supportata dal fatto che sono una pediatra, quindi mi sono ritrovata a guardare in faccia delle persone, delle ragazze che io conoscevo, a cui era stata accanto durante l'adolescenza, per tutti i motivi che mi potete immaginare. Mm-hmm. Quindi ritrovarmene lì mi è sembrato, che vi devo dire, proprio dire, dottoressa, visto tutte le cose che lei ha fatto sono state inutili. E quindi questo mi ha dato ancora più molta amarezza. Vorrei chiedere a Francesca Cavallo, cioè in fondo la preghiera era all'interno della chiesa, esattamente che cos'è che l'ha disturbata di questa vicenda? Perché il parroco, sì, è vero, si dice non si deve fare politica, no, dal pulpito, ma questo da che mondo è mondo, in Italia si è sempre un po' fatto. Cioè il parroco all'interno della chiesa non può fare una preghiera per quello che desidera? O chiamare i fedeli? Ognuno può pregare per quello che vuole, però il fatto che una persona che prima di tutto tendenzialmente si prega per e non contro una cosa. Il discorso era appunto una preghiera per la famiglia, se ho capito bene. Per la famiglia, no, ovviamente intesa dal... Non era scritto sul foglietto che non era una preghiera per la famiglia, era scritto che era una preghiera contro il DDL per l'omotransfobia. Quindi è stata presentata come una preghiera contro. L'altro aspetto è che nel momento in cui uno è un parroco ha delle responsabilità non solo nei confronti di quello per cui sta pregando personalmente, ma ha una responsabilità nei confronti di tutti i parrocchiani. Il parroco ha pregato per la conversione e ha consigliato terapie di conversione a persone omosessuali. Questo è un gesto di enorme violenza, perché se uno ha la possibilità di viaggiare, di leggere al di fuori del contesto di un piccolo paese del sud e di capire che l'omosessualità non è più considerata da tantissimi anni una malattia per la che necessita terapia di conversione, è un conto. Ma voi dovete pensare che in questi paesini ci sono tanti ragazzi che non hanno la possibilità di avere accesso a questo tipo di informazione. Sì. Io ci sono cresciuta a Lizzano e so che cosa vuol dire crescere omosessuali in un contesto in cui si è completamente privi di modelli. Quindi questo tipo di atteggiamento non ha a che fare con la libertà di pregare, sì, per quello che si vuole, ma ha a che fare con una violenza psicologica che viene esercitata su persone che sono già molto deboli e che poi spesso purtroppo possono prendere decisioni molto gravi per la propria vita. Capisco che il contesto che lei conosce, che ci ha spiegato anche il sindaco, è un contesto magari non di una grande città metropolitana, ma magari si è sottoposti a delle pressioni notevoli, se all'interno della parrocchia, del paese, passatemi questa espressione, ci sono questo tipo di insegnamenti. Io vi ringrazio, ripeto, la sindaca Antonietta Doria e Francesca Cavallo, scrittrice che è originaria di Lizzano e con io cito quest'opera perché è la più celebre, nonostante lo stupore di Leonardo Manera, che evidentemente non ha mai letto, avendo un figlio maschio, la storia delle Buonanotte. No, in per effetti non lo conoscevo. Che per Mondadori io non sapevo la cifra, Francesca Cavallo l'ha scritto con Elena Favilli, sì, sapevo che a livelli ormai milionari di copie vendute, ma insomma quasi 5 milioni in tutto il mondo. Ma qual è la posizione, io sono ignorante in materia, qual è la posizione ufficiale della Chiesa rispetto... Ha fatto anche molto scalpore, secondo alcuni giornali come La Verità, come Libero, che attaccano questo decreto legge, il fatto che Avvenire abbia in qualche modo anche intervistato Ivan Scalfarotto, che è uno dei proponenti di questa legge, non con una posizione di ostilità o di chiusura, anzi, secondo alcuni giornali molto conservatori, sono rimasti un po' scandalizzati dell'apertura di Avvenire. Sì, ma qual è la posizione ufficiale della Chiesa? Ufficiale non lo non so. Possiamo chiamiamo chiamare il Papa. Chiamiamo il Papa. Miriam Lucchetti, che... Sfida Lucchetti! Puoi chiamare il Papa. Oggi una grande sfida Lucchetti, signori. Hai tempo fino alle 10:15. Ma scusa, fai Città del Vaticano. Sì. Papa, ci sarà Papa, pure sì. Bergoglio. Benedetto. E secondo me risponde. Guarda che lui, ti ricordi quando telefonava? Benedetto era l'altro, Papa Francesco. Ti ricordi quando telefonava alle persone all'inizio? Sì, Papa Bergoglio. Sì. Secondo me proviamo. Prova a chiamare il Papa, Lorenzo. So. Vediamo se ci risponde. Va bene. Ma ce l'hai Papa, noi abbiamo un'agenda sempre molto ricca effettivamente. Sì, ma non vuoi che abbiamo qui a Radio 24 qualche entratura? Vabbè, fate un contratto. Cerca Papa. Papa. C'era l'ex onorevole Papa, non è proprio la persona più indicata per sostituire. Così almeno sappiamo qual è la posizione ufficiale della Chiesa ma in merito. Ma fate questo contratto al mio amarone preferito, senza di lui la trasmissione mancherebbe di una parte importante. Siete una coppia ormai, Rita da Roma. Sì, sì, allora, parlo io. Se chiamate il centralino del Vaticano, parlo io. Se vuoi, dopo, più tardi, chiamiamo sì, e vediamo. Ma sì. Vorrei parlare con il Papa. Sì, siamo Radio 24, traffico, io sono... Traffico. Hai un libretto smart? Allora rendi i tuoi risparmi dei super risparmi. Attiva online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. E se non ho il libretto smart? È facile. Prima ne apri uno, prima attivi l'offerta. E a scadenza riceverai un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. Puoi farlo solo online su poste.it o da app BancoPosta. Più comodo di così. I buoni e libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, sono le 9:49 minuti, ci siamo messi in mente questa cosa, i centralini vaticani. Manera, adesso fai tu. Sì, ci penso io se risponde. Questo è il centralino del Vaticano, stiamo telefonando al Vaticano. No, ma non può suonare così, scusate. Suona in maniera diversa perché c'è il Papa. Chiamiamo il centralino del Vaticano e Leonardo Manera si è messo in mente che vuole parlare col Papa. Per sapere qual è la posizione ufficiale della Chiesa sull'omosessualità. Buongiorno. Sì, io mi chiamo Leonardo Manera, chiamo da Radio 24. Sì. Vorremmo sapere se è possibile parlare col Papa per sapere qual è la posizione ufficiale della Chiesa sull'omosessualità, visto che stiamo parlando di quello. Se lei ci... Attenda un attimo. Grazie. Vabbè. Beh, intanto sono stati gentili. Beh, insomma, ci mancherebbe. Vediamo, magari risponde. No, non penso ti passerà un segretario. Sì. Vediamo un po'. Vediamo. È che dobbiamo fare la stessa trafila, buongiorno. Beh, adesso possiamo chiedere, no? Non c'è problema a ripetere, visto che siamo direttamente a colloquio con i vertici del Vaticano. Hai visto che sono stati... Non credevo che fosse così solerte il centralino del Vaticano. Vedi, adesso vedrai però che tra qualche squillo... Il centralino sì, ma qualcuno che ci ha passato è meno solerte. Secondo me sta parlando il Papa col suo segretario e stanno decidendo se discutere oppure no. Con te. Con me, con Leonardo Manera qui da Radio 24. È una vera democrazia allora, non una monarchia perché... Vediamo un po'. Magari va bene anche una guardia svizzera. Secondo me ci ha passato una guardia svizzera. Adesso vediamo se è una guardia svizzera. Ci passi Fusconi a sto punto. Oppure questa è direttamente l'appartamento del Papa. E che in questo momento è assente. Oppure sta facendo qualche cosa, dice. Vabbè. Rispondo più tardi. Credo che non. No, non lo so. Secondo me la persona del centralino che ci ha risposto in maniera molto solerte, però ci ha passato qualcuno che evidentemente niente, non rispondono. Non rispondo. Ci ha turlupinato. Dopo riproviamo a richiamare. Dobbiamo riprovare dopo. Vabbè, sì, vabbè. Proviamo a richiamare anche dopo. Prego. A che ora chiudiamo la prima parte? Per sapere. Io lo sapevo che lui doveva tirare un po' in lungo. No, è per sapere se. Tra 4 minuti. Ah, ok, ci dovrei stare. O preferisci fare una telefonata a un ascoltatore? A tuo zio. Non e dopo so. Facciamo il pezzo più tardi. Non come preferisci? So. Adesso decidiamo. Non so, cari ascoltatori, volete sentire il pezzo di Manera adesso oppure. Direi di sì, l'Alpino ha deciso. Sforiamo per un po' però, sforiamo un po', vi avverto già. Ti vengono dati 30 secondi. Allora oggi il mio pezzo verte sul fatto che avreste dovuto voi parlare dell'utilizzo dei corpi, è vero o no? Sì. Ieri si parlava di quella cosa, no? L'utilizzo dei corpi, sì. Comunque siamo in estate, i corpi si scoprono e si sa quanto ai nostri tempi il corpo e l'estetica del corpo abbia ancora importanza. Quando ero bambino io ricordo che era normale che tutti fossimo un po' imperfetti a scuola, quello con qualche chilo in più, quello con un po' più basso, quello con l'orecchia sventola. Venivamo, è vero, bonariamente presi in giro, ma sapevamo che non era quello il tempo dello sviluppo definitivo. Sapevamo che eravamo in via di modificazione e soprattutto non avevamo un'attenzione così maniacale all'aspetto fisico e anche a come ci vestivamo. Se avevamo qualche chilo in più posizionato sui fianchi, i genitori dicevano: poi quando ti allunghi quel grasso sparisce, come se andasse appunto in altezza. L'aspetto esteriore, che pure contava, non era però il centro dei nostri pensieri. Se avevamo fratelli maggiori, eravamo condannati per anni a indossare i vestiti dismessi da loro a dispetto delle mode. Io, ad esempio, penso di non aver mai avuto un vestito che è stato comprato per me prima di una certa età. Ho sempre messo i vestiti di mio fratello, il problema però erano i grembiulini che portavano ricamato il nome di mio fratello. Insomma, per un po' ho avuto crisi di identità. Invece, se non avevamo fratelli maggiori, le nostre madri compravano vestiti di 2-3 taglie più grandi in modo che potessero andarci bene per un bel po' di tempo, obbligandoci ad andare in giro, almeno i primi tempi, vestiti come clown. All'inizio come clown dagli abiti giganti, a fine ciclo dei vestiti come clown dagli abiti striminziti. Tutto questo perché l'immagine era un po' meno importante, contava anche quella, ma forse non era l'aspetto preponderante di una persona, almeno da bambini. Oggi invece vedo che fin dai primi anni di vita si dà grande importanza alle acconciature delle femmine, perfino agli addominali dei maschietti che ricercano la tartaruga appena smesso di usare il ciuccio. Poi arriva l'adolescenza in cui le differenze fisiche si acuiscono ancora di più. I belli e le belle baciati dalla fortuna, quelli normali o un po' brutti che si chiudono ancora di più in se stessi, insoddisfatti di non poter aderire a canoni estetici quasi irraggiungibili e che si sentono fin da quegli anni obbligati a una vita da mediano. Perché sarà pur vero che quello che conta nelle persone è soprattutto l'intelligenza, ma è anche innegabile che il primo giudizio che si dà di una persona è proprio quello estetico, il primo, ma poi c'è il secondo, il terzo e così via. Io ad esempio ho conosciuto una ragazza splendida che ha passato tutta la serata a raccontarmi di un brufolo che le stava spuntando sulla fronte, obbligandomi a una cena noiosissima. Ne ho conosciute anche di belle, molto intelligenti, e quelle giustamente non hanno mai voluto avere a che fare con me. Eppure è inutile negarlo, il corpo e la bellezza la si usa e probabilmente resta la leva principale per ottenere benefici e facilitazioni nella vita. Io credo che in tutti gli ambienti di lavoro ci sia qualche persona che è stata assunta o ha fatto carriera più per l'aspetto fisico che eventualmente per le proprie capacità. E io stesso devo confessare che, se non fossi stato così bello, non mi avrebbero mai preso Radio 24. Infatti, prima di chiedere il rinnovo del contratto, penso proprio di prenotare un appuntamento dalla mia estetista di fiducia. Mamma mia, ragazzi, il bello Manera, il bello Manera. Vabbè. Niente, non risponde il Papa. No, adesso non c'è tempo. Dopo proveremo a richiamare alle Danilo Di Trani alle 10.05. Quando rientriamo, proviamo a richiamare. Insomma, perché abbiamo questa curiosità. Leonardo Manera vuole la posizione ufficiale della Chiesa sulla omosessualità. Ma sull'omosessualità o sul DDL anti-omofobia? No, a me basterebbe sapere sull'omosessualità. Beh, ma su questo forse documenti ci sono ufficiali. Sfida Di Trani, dai, documenti ufficiali. Intanto giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Milan, in dialetto trentino, mi dice: a ciacere non se ne sgionfa femmine. Questo per dire che i figli costano e le tutele non esistono. Ma come gli ultimi due giorni di Leonardo Manera? Ma che è sta storia? Ma no, a parte che c'è settimana prossima, Leonardo Manera si è già buttato avanti, come dire, le ferie oltre l'ostacolo. Per lui saranno ferie un po' lunghe, eterne. Recupero le mie abitudini. Recupero le mie abitudini precedenti, quando potevo alzarmi tardi, non prendere mai la metropolitana nell'ora di punta. Magari lo farai così per abitudine ormai. No, torno alla mia vita precedente, una vita più serena, più felice, anche più felice, diciamolo. Magari parli da solo in metropolitana, ti arrestano. No, non la prenderò mai più prima delle 10, come prima, come ho fatto prima nel resto della vita precedente. Fino a 50 anni non ho mai preso una metropolitana prima delle 10. Capite che vita? Allora, c'è questa notizia che effettivamente anche il giornale radio ha dato con grande enfasi questa mattina. C'è questa nuova scoperta scientifica che sarebbe stata fatta da un team di medici e astrofisici italiani. Magari domani proveremo anche a sentirli. Secondo i quali i raggi ultravioletti del sole disattivano il coronavirus, cioè uccidono il virus, disattivano, sarebbe meglio dire, più che uccidono, disattivano il virus, coronavirus. E quindi, insomma, siccome non si può riprodurre gli ambienti, il sole negli ambienti chiusi, però l'idea è questa: si potrebbero mettere delle lampade a raggi ultravioletti negli ambienti chiusi, così ci abbronziamo anche. Cioè, quindi puoi mettere nei centri di abbronzatura non c'è il coronavirus. Non buttiamola in vacca. No, non stiamo buttando in vacca, no. È vero, nel senso, se fai il lettino integrale sei al sicuro dal coronavirus. Vabbè. Vieni a contatto con uno che ce l'ha, cosa fai? Ti imbottisci di medicinali? Sì, no, vai a fare una lampada integrale. Vabbè. Non lo so, vedremo. Ma sei stato soddisfatto? Infatti, negli anni '80 non c'era il coronavirus, perché le persone facevano molte più lampade. Non l'abbiamo buttato in vacca. È vero o non è vero che negli anni '80 non c'era il coronavirus come adesso? Perché si facevano le lampade? Non mi interrompa. Allora, mi permetta, non l'ho interrotta quando parlava lei. Mandiamo l'ino del PIS, il partito super sovranista italiano. Se vogliamo negare le evidenze conclamate, allora neghiamole. Se invece vogliamo. Eccolo qui finalmente, mandiamo l'inno del Pissi, partito super sovranista italiano. Ecco, Pissi anche tu, PSSI Pissi. Se vogliamo negare le evidenze, le neghiamo. Se invece vogliamo essere corrispondenti alla realtà, è per questo che dico: negli anni '80, quando c'era ancora la lira, quando si facevano più lampade abbronzanti, quando gli italiani erano più liberi e in grado di decidere senza farsi condizionare dai cosiddetti paesi frugali, eravamo un paese più felice. Adesso, con questa frugalità, non possiamo più neanche andare a farci le lampade. D'altronde, e quindi vince il coronavirus. Non mi interrompa, chiama i carabinieri e abbandono lo studio. E il cerchio si chiude. Una parola è poca, cinque sono tante, io dico le mie. E quindi questa è la realtà dei fatti. Se poi la si vuole negare, va bene. Non la neghiamo. Ora abbandoni lo studio, grazie. Senti, Leonardo, ma sei rimasto soddisfatto della risposta del Vaticano, del centralino Vaticano? Ci vuoi riprovare? Io ci riproverei, perché riproviamo a riparlare con il Vaticano. Leonardo Manera vuol sapere dal Papa in persona. Adesso quale proverò, sia la posizione sull'omosessualità della Chiesa. Proverò anche a chiedere, se non il Papa, una persona preposta. Vediamo adesso. Pronto, Vaticano? Buongiorno. Chiamiamo da Radio 24, ho già chiamato prima, mi chiamo Leonardo Manera, siamo in diretta a Radio 24. Siccome stiamo parlando di omosessualità qui in radio, volevo sapere se ci può passare il Papa o una persona, diciamo, addetta a dare delle risposte ufficiali sul tema della omosessualità, se c'è qualcuno che può, perché vorremmo conoscerlo, perché non lo sappiamo qual è. Perché allora io provo a passare segretario di Stato uscieri, chieda a loro, gli uscieri, spieghi bene. Sì, poi dopo. Grazie. Perché col Santo Padre direttamente no. Però se vuole qualche notizia, parli con loro. Sì. Non è proprio esatto, però può informare. Grazie, molto gentile. Bene, intanto Danilo Di Trani mi ha scritto: sulla linea 4 c'è il Vaticano. Così mi ha scritto, mi sono anche un po'. Ha scritto, guarda qua, sulla linea 4, Vaticano. Quindi gli usceri, però ha detto il Santo Padre proprio direttamente. No. Sono stati molto gentili. Ma chi ci passa quindi? Gli usceri. Non so, ha detto così. Quindi un usciere può darci la posizione ufficiale. Gli usceri sono quelli di prima che non rispondono. Sono usciti forse. Gli usceri sono usciti. L'ha detta. Sai che è impossibile parlare. Evidentemente è impossibile parlare con qualcuno che ci può dare la posizione ufficiale della città del Vaticano. Beh, adesso non trarre delle conclusioni. Diciamo, non rispondono, saranno andati a bere un caffè. Non è che non vogliono. vogliono parlarci. Sì, ma noi siamo in diretta, Radio 24 è anche una radio nazionale, sarebbe anche nell'interesse. Ho capito, ma loro non sanno che gli uscieri, non è che gli uscieri della segreteria di Stato sono lì in attesa. Vabbè, niente, abbiamo capito che oggi è giorno di sciopero, evidentemente, degli uscieri. Non si può lasciare un messaggio? Non c'è la possibilità di lasciare. Vabbè, non lo sappiamo. Vabbè, grazie. Comunque, ci abbiamo provato due volte. Sentiamo Gennaro da Monza. Buongiorno, Gennaro. Ci riproveremo fino alle 11, potremmo riprovarci. Gennaro, ecco. Buongiorno a voi, buongiorno. Sono Gennarino Quinto, se vi può bastare, visto che il Papa non è arrivato. Va bene, grande Gennarino. Vai, Gennarino. No, volevo per il discorso dei figli che non facciamo. Che non facciamo figli, è perché siamo tutti scavoloni. Adesso... Scavoloni? Ma... sì, perché... C'è un cane che viene a sbranarti, Gennarino. Sì, adesso mi sposto. Sì. No, la verità aspetta, è che... Aspetta, dal Vaticano. Aspetta, Gennarino. Pronto? Sì? Buongiorno, siamo in diretta su Radio 24, io sono Leonardo Manera, stiamo parlando di omosessualità e allora ci chiedevamo se è possibile conoscere, sapere qual è la posizione ufficiale della Città del Vaticano rispetto alle famiglie omosessuali, in generale sull'omosessualità, se le famiglie omosessuali sono riconosciute dal Vaticano oppure no. Il gelo. Secondo me l'usciere è uscito a questo punto. Gennarino, niente, dai, riprendiamo la situazione. L'usciere avrà detto, ma perché devo rispondere? Io faccio l'usciere. Secondo me è andato a chiedere al Papa. Gennarino, vabbè. Dice, siamo scapoloni, diceva sì, Gennarino. Sì, che sì, io parlo, sì, parlo per quella per conoscenza mia, dove lavoro io, ci sono tutti ultra cinquantenni, sono... Su 10 ragazzi ce ne sono 4-5 che sono oltre 50 anni che non riescono a tirare su famiglie perché o non hanno voglia o non sono, diciamo, c'è, così. C'è anche questo aspetto, sì, che dice Gennarino, culturale, a dire: ma perché uno deve fare figli? I figli costano fatica, oltre che costano dal punto di vista economico. Sono, per me, come ha detto varie volte nei pezzi Leonardo Manera, sono comunque sempre uno dei momenti più belli della nostra vita, no? Il figlio, fare un figlio. È faticosissimo. Però è faticosissimo. Sconsiglio. Ecco. Poi una volta che ce l'hai è bello. Ma pensando a tutti i casini che ti porta, se siete ancora in tempo, sconsiglio. Qua niente, distruggiamo tutti i valori. No, poi quando c'è è bello, è anche fonte di felicità. Certo, devi entrare, è anche fonte di felicità. Devi entrare in un'ottica diversa, cioè di dedicare poi tutta la tua vita al figlio per sempre. Vabbè, dai, andiamo al traffico, poi Giampiero, Roberto, poi cercheremo di svelare la questione di Mauro Morandi, eremita di Budelli, che secondo alcuni giornali andrà sfrattato, perché avremo l'ente parco della Maddalena che ci risponde sul punto. Diciamo che verrà sbudellato. No, sbudellato. No. Finalmente la valigia è fatta. Costume c'è, ciabatte anche. Stella, Cooper, nella vostra cosa mettiamo? Per le vacanze con i tuoi animali, affidati agli specialisti numero uno in Italia. Da Arcaplanet trovi piscine in varie misure a partire da €29,90. Tappetino refrigerante a partire da €9,90. E sconto del 30% su fontanelle per cane e gatto. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store. Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qua, 10 e 20 minuti, Roberto da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci. Io ho sentito prima la signora Cavallo, però sì, la sua posizione mi è sembrata molto particolare, perché dice, ma il prete non può fare la preghiera contro, non si possono fare le preghiere contro, a parte che le preghiere contro il virus, contro sempre fatte. Vabbè, contro il virus, tutti siamo contro il virus. La posizione è esattamente quella contro cui il parroco ha fatto la sua preghiera. Sì. Cioè, il parroco non è libero di fare il parroco, deve fare quello che vuole la signora Cavallo. È lei che decide se la cosa è giusta o non è giusta. Ma devo dire, Roberto, anche a me un po' di perplessità ha suscitato, cioè dire un rosario all'interno di una chiesa, uno fa il rosario per quello che vuole. È singolare che si faccia un rosario contro l'approvazione di una legge, cioè uno può dire, se fosse facciamo un rosario per pregare per la famiglia che secondo la chiesa è uomo e donna, va bene, fare un rosario contro l'approvazione di una legge è un po' singolare, cioè lei non lo trova un po' singolare, nel senso che altro può fare un parroco? Prende su tutti i parrocchiani e li porta sotto il Parlamento a fare protestare. No, allora mi dica che cosa può lui fa quello può che non fare, può non fare, può fare un rosario per il rosario e non contro l'approvazione di una legge. Poi può fare quello che vuole, per me sia ben chiaro. Però vabbè, lì sono andati un po' a protestare. Però io sono abbastanza d'accordo con lei, nel senso che un rosario è un rosario, insomma, però a noi piace dare voce un po' a tutti, sia a chi ha protestato e sia a lei che è qui a dire che è in disaccordo. Grazie Roberto. Giampiero, provincia di Como. Sì, ciao. Eccoci, ciao. Ciao, allora no, io volevo parlare della storia di prima praticamente, però partiamo dalla chiesa che non ho sentito cos'era, però... Io dico che la Chiesa praticamente è un insegnamento di vita, e parlando del dar tempo alla famiglia per vivere, per fare figli, per stare in famiglia, per vivere la famiglia, per i suoi casini bellissimi del crescere i figli, i nipoti, sì. Io sono nonno, ho vissuto diverse generazioni, prima come zio, con i miei nipoti, poi come papà, poi come mai, e quindi dopo come nonno, quindi... È una vita bellissima, senza questa vita praticamente non c'è più niente. Però non capisco perché non riusciamo a dargli tempo per vivere questa vita. E come dobbiamo farlo? Secondo me dobbiamo farlo ricordandoci che la domenica appunto, ritornando alle religioni, che sono per me un insegnamento di vita, cercano di mettere in ordine un'esistenza quando vengono fatte. Qualcuno un po' più in là cerca di capire e di metterci in ordine. E dice, anche lì tutti difendono il giorno del riposo, il giorno della famiglia, il giorno per stare con la moglie. Giampiero, lei si capisce che è molto religioso, insomma, non tutti hanno questa prospettiva, no? Però lei trova nella religione tante risposte, no? Lei ha dei figli, lei? Ho figli, nipoti. È riuscito a portarli in chiesa quando erano piccoli, quando avevano 5-6 anni, li portava in chiesa? Solo quell'età lì, poi non sono più andato in chiesa neanch'io, non sono più un religioso. Quindi la supposizione di Milan era del tutto sbagliata, no, cioè lei non è molto religioso. No, parla di non è praticante, non è praticante lei più. Però no, assolutamente. Ha parlato lei di religione come risposta, di domenica come momento? Ma guardi, io ho letto libri di tutte le religioni, ho capito che cercano di dare ordine alla vita, insomma, cercano di mettere in ordine un po' la gente, no? E di dare un po' di... E quindi, ma non sono uno che crede nelle religioni, credo in Gesù Cristo come grande personaggio, ma non credo che lui sia figlio di Dio. Va bene, Giampiero, grazie per questa delucidazione, ma adesso vogliamo tornare sul tema che abbiamo affrontato ieri con il nostro Mauro Morandi, l'eremita di Budelli, come noi lo definiamo. Qualche giornale ha pubblicato a Nuova Sardegna, credo, ripreso poi da tutti i giornali, il fatto che potrebbe essere sfrattato. Abbiamo il presidente dell'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, lo invidiamo tantissimo, tra l'altro per il meraviglioso luogo che lui, quando aprirà la finestra al mattino, potrà osservare rispetto a noi che siamo a Milano. Fabrizio Fonnesu, buongiorno a tutti voi e grazie di essere qui. Allora, ci aiuti a capire, perché io so che lei ci può dire qualcosa di importante per Mauro Morandi e per i nostri ascoltatori. Allora, deve essere sfrattato, sì o no? Mauro Morandi. Con grande piacere. Allora, io vi dico questo, ma non stiamo parlando minimamente di alcuno sfratto. Noi, anche con l'intervista che è stata rilasciata l'altra volta dal direttore, parlava dei soliti problemi che noi abbiamo su quell'isola in termini di abusi edilizi. Sì. Come voi sapete, uno dei capisaldi fondamentali della tutela ambientale è proprio la lotta contro gli abusi edilizi. Li abbiamo a casa nostra, quindi noi dobbiamo intervenire anche per dare il buon segno. Cioè, e vuol dire che la casa di dove vive, che poi è un po' rabberciata, se l'è messa insieme un po' così Mauro Morandi, è abusiva, nel senso, certo, non è che esattamente. Ricordiamo però che Mauro è sempre stato un custode legittimato, perché l'isola era privata e quella era un'abitazione teoricamente privata. Quindi gli abusi erano stati commessi nel passato, ora quella è diventata un'isola di proprietà pubblica dell'ente Parco Nazionale, come tale quegli abusi sono stati riconosciuti dal Comune della Maddalena e noi puntualmente e immediatamente dobbiamo attivarci perché sì, comunque venga sanata questa. Io non vorrei solo, presidente, far passare Mauro Morandi, uno che da 31 anni sta lì per amore di solitudine, sicuramente anche a amore dello straordinario ambiente in cui vive, per un abusivo che si è. Non è certo Mauro, assolutissimamente non è certo Mauro, però di fatto io continuo a dirvi, noi siamo proprietari di un bene che a oggi risulta con degli abusi di. Dobbiamo intervenire, quindi abbiamo detto per ora ci stiamo occupando di sistemare questa pratica, una pratica che è ancora lunga perché capite bene che quell'isola iperprotetta ha mille difficoltà, sì, quindi ancora stiamo predisponendo il capitolato d'appalto, dovremo uscire con poi tutta la procedura di, insomma, cioè, per una volta, per una volta la burocrazia ci, per una volta la burocrazia lo salva per un po', lo sta aiutando, però, però il che vuol dire che ci sarà tempo e non so, mettiamo 6 mesi, ma no, di più, io di più. Penso che ci sarà un po' di tempo, sì, insomma i nostri uffici stanno ancora predisponendo tutto il bando, so, tutto il capitolato di più, un anno, di più, un anno di più. Non saprei, facciamo non saprei. 6 anni, no, facciamo una burocrazia di quelle lunghe, 12 anni, no, insomma, cari ascoltatori, vuol dire che quella casa va sanata, ci sono tutte le procedure burocratiche da aprire. Il che vuol dire che per il momento Mauro Morandi, se ho capito bene, presidente, sta lì, no? Sì. Sta lì. Però tra X mesi inevitabilmente dovrà sloggiare. Esatto. Lui ha chiesto almeno di fare il custode notturno dei cantieri che ci saranno. Cioè lui, presidente, lui vuole stare lì, questo uomo vuole star lì fino a vivere tutta la sua vita lì, non fa male a nessuno, anzi secondo me fa del bene, non fa male a nessuno veramente. Ma guardate, ma dipendesse da noi, dal presidente, dalla governance del parco, purtroppo non siamo noi a poter decidere tutto quanto questo. Io di sicuro sono il primo che sostiene anche il valore di questa persona, però sicuramente poi tra tutti quanti, gli organi preposti, tutti il ministero, noi cercheremo di trovare una sistemazione giusta anche per Mauro, ma veramente credetemi che non dipende né dal presidente né dall'ente parco. Sì, ma a Budelli, oltre alla casa dove abita Mauro, ci sono altri abusi edilizi? No, solo quella, perché è l'unica costruzione esistente. E quindi la soluzione alla fine è abbatterla, dice lei? No, bisogna sanarla. Magari sanarla. Il problema è che nel momento in cui viene sanata, poi lui potrebbe rimanere come custode, però, o no? Sì, però ha 81 anni. Però il problema è, cioè sono tanti fattori, veramente. Dovremmo mettere sul piatto tante considerazioni. Poi considerate anche che l'ente parco è un organo vigilato dal Ministero dell'Ambiente. Quindi noi tutte le scelte che facciamo e prendiamo le concertiamo sempre soltanto con Roma. Quindi io sono sicuro che comunque per il futuro si troveranno delle soluzioni giuste, corrette e anche di interesse per tutti, via. Però ora veramente siamo in grandi difficoltà da poter dire cosa sarà. Prioritariamente dobbiamo intervenire veramente anche per dare un po' il giusto segnale a tutti quanti. Non si possono commettere abusi edilizi dentro delle riserve naturali o aree protette. Sì. Quindi diamo il buon esempio e interveniamo. Questo poi, non c'è dubbio. Sicuramente io do il massimo impegno veramente per cercare. Mauro è una carissima persona, io lo conosco da bambino, quindi figuratevi se ho piacere di cacciare una persona che comunque stimo, è una persona che ha fatto del bene, ha sempre comunque protetto un ambiente. Il problema è che giustamente ci sarà un'altra sistemazione, il problema è che per lui, quella sistemazione è la sua vita, per una scelta di vita evidentemente, non è che stiamo qui a sindacare, presidente, cioè non credo, sì, andrà da qualche altra parte, ma non sarà più Mauro Morandi, ecco, non sarà più felice così. Però capisco, io capisco tutto, cioè a stretto rigor di logica, lei ha totalmente ragione, non c'è niente da dire. Come la risolviamo tra la ragione, la burocrazia e il cuore? Noi siamo legati a Mauro Morandi, come la risolviamo, presidente? Io, guardate, spero prevalga il cuore, però credetemi che al momento è molto difficile pronunciarsi, però io come sempre dico, prometto di dare il massimo perché Mauro veramente possa star lì e possa comunque continuare a far del bene all'ambiente come ha sempre fatto. Sì. Però vedremo. In speriamo nella noi tifiamo per una volta burocrazia, dillo con me Leonardo, burocrazia. Va bene, grazie al presidente dell'ente Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, Fabrizio Fonnesu. La soluzione ci sarebbe. Soluzione facile, attenzione. Basterebbe bere un bicchiere di elisir del dottor Meazza. E Mauro Morandi rimane lì. Rimane lì e vengono automaticamente anche sanati tutti gli abusi edilizi. Stupendo. Questo. Al costo di? €19,90. Ah, non è aumentato neanche per il coronavirus, è tutto. Va bene, dai. Alle e ve lo porta a casa direttamente Mauro Meazza. Mamma che magari mia, fa anche un prestito. Se avete bisogno di denaro, vi presta anche del contante, ovviamente per giusto interesse. So, andare fino, non so, a Napoli per €19,90. Cioè, a quel punto vi vorrà estorcere del denaro. Come a presta tassi lui? Usurai, no? 30, cos'è? 30 fa lui? 30 a settimana? 30%. Sapevo il 35, però se a te ha fatto il 30, questa cosa mi infastidisce anche. Va bene, andiamo a sentire la borsa. Italiano, ogni volta che ti arriva la bolletta su di freddo? Da oggi puoi risparmiare sulla corrente elettrica montando le lampadine bruciate Bellugi. Le lampadine bruciate Bellugi consumano il 100% in meno di corrente rispetto alle lampadine normali, anche quelle a LED. Lampadine bruciate Bellugi, dai un colpo alla bolletta prima che lei lo dia a te. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. Milan, buongiorno, guarda che nell'Arabia Saudita, a Mecca e a Jeddah, ci sono 44-46 gradi e si contagiano lo stesso col coronavirus. E per me non è una teoria giusta, non è vera. Mauro Morandi, di Budelli. È il classico caso italiano dove c'è uno che se ne sta tranquillo e non rompe l'anima a nessuno, se ne accorgono e sono gli altri che vanno a rompere le palle a lui. Ma voi veramente pensate stamani che il Vaticano vi possa rispondere su un argomento simile? Non ci prendiamo per il culo, no, dai. Ma no, ma infatti adesso devo dire che abbiamo scatenato il putiferio. Tu, Leonardo Manera, ci hanno scritto gente che ci scrive dei brani del Catechismo della Chiesa. Ci ha scritto anche Don Luigi, prete cattolico, che vorrei chiamare adesso. Stiamo contattando a capire se ha voglia di spiegarci. Perché tu hai chiesto la posizione sull'omosessualità. Sì, se sono... che è un tema molto complesso e peraltro ci sono vari documenti vaticani. Tu li conosci questi documenti? No, per esempio Don Luigi ci ha scritto l'enciclica Amoris Laetitia, oppure ci sono brani del Catechismo degli omosessuali, se vuoi te lo leggo, però sono diverse righe. Ma proviamo magari a chiamarlo, vediamo se ce lo spiega lui, perché non lo so, vediamo. Comunque io sono ignorante in materia e non so cosa ne pensa appunto la Chiesa su questo argomento in modo ufficiale. L'ufficialità, cioè adesso, l'ufficialità. Ci sono gli ascoltatori, però io come dire, mi si è chiusa la pagina delle telefonate, quindi adesso la devo riaprire, se no allora, c'è Franco. Aspetta, c'è Franco, ridimmi bene Franco da dove è, anzi ce lo dice Franco, da dove chiami? Allora, dalla provincia di Como. Ecco, dove esattamente? Mi si è riaperta la schermata delle telefonate, quindi lo so anch'io adesso, Franco, che chiami dalla provincia di Como. Che eccolo cittadina qua. Esattamente? Franco, dalla la provincia... cittadina, Manera, la cittadina è Cabiate. Cabiate. È l'ultimo paese in provincia di Como. Ha avuto una fidanzata a Cabiate, si è capito subito dall'espressione degli occhi. No, non è vero. No, come fai a saperlo, Franco, che Leonardo... Tranquillo. Come fai a sapere che non ha avuto... Non può avere fidanzate in ogni dove. E ecco, bravo, grazie Franco. Il marinaio di Radio finalmente, 24. Finalmente ecco. Una persona che è un po' dalla mia parte. Vabbè, grazie Franco. Franco, cosa ci vuol dire? Cosa ci vuoi dire? Niente, volevo dire... Per quanto riguarda Mauro Morandi, chiedevo, ma lui paga un canone con un affitto qualcosa per restare lì? Ma non credo proprio. Lui è arrivato lì 31 anni fa, ha intrapreso un viaggio con alcuni compagni in barca, volevano andare tipo in Indonesia a trovare un'isola dove vivere lontano da tutto e da tutti. Hanno fatto hanno avuto un problema meccanico alla nave, alla barca, la barca a vela. Sono sbarcati a Budelli e lui ha detto: ma qua per me è talmente incantevole che voi proseguite pure, e lui è rimasto lì. Ecco, prima allora, erano in due, poi uno è morto, è rimasto lì. No, non credo che paghi. Cioè, al di là di tutto questo, se non tira fuori una lira, c'è il famoso uso capione, sì, che una volta era di 15 anni, poi l'hanno portata a 20. E lui è 31 anni che è lì con l'uso capione, praticamente nessuno lo può buttare il fuori. Il problema è che prima, se ho capito bene, era di un privato quell'abitazione. Adesso è passata allo Stato, e quindi c'è stato, quindi forse non. E poi è una casa abusiva con degli abusi edilizi da sanare. E lo so, caro Franco, infatti adesso vediamo, non so, Mauro Morandi vuole combattere, noi combatteremo con lui questa battaglia, sarà un po' l'ultima battaglia della sua vita, no Leonardo? Chissà. Dipende quanto vive. Che ovvietà che hai detto. Sei tu che hai detto un'ovvietà. Cioè, dai, cioè, volevo 80 dire anni, qualcosa di poetico. A 80 anni, dice, sarà l'ultima battaglia della vita. No, guarda, chissà quante ne farà ancora. Che ne so, ma magari gli altri anni non vuol dire che vive un anno, vuol dire che negli altri anni sarà tranquillo, questa sarà l'ultima grande sua sfida da vincere. Sai che io sono stato in vacanza invece all'isola di Santo Stefano, che è sempre lì vicino, è sopra Maddalena, che è un bellissimo posto, anche quello però è tutelato e quindi non si possono, giustamente, non si possono mettere ombrelloni sulla spiaggia. Quindi i turisti che vanno lì se ne possono mettere solo tre, se non sbaglio. I turisti che vanno lì si devono affollare tutti sotto quegli unici tre ombrelloni adesso che ci sono. Non si può, ma adesso col coronavirus è un problema. Sarebbe utile sapere come fanno, perché sulla spiaggia di Santo Stefano sono previsti, per esempio, pochissimi ombrelloni con un ciuschi avrebbe risolto il problema di Mauro Morandi, come ci scrive un ascoltatore. Doraemon con i suoi ciuschi. Sergio da Como, oggi ci ascoltano solo tutti da Como. Da Como. Como città lei? Como sì, città. Como città. Ecco, vai Sergio. Lavorato al Teatro Sociale di Como, ho fatto lo spettacolo, un bellissimo teatro. Sì, è un bel teatro, davvero. Sì. Innanzitutto ciao ad entrambi. Ciao. Niente, volevo segnalare solamente questo, che Papa Bergoglio un giorno disse chiaramente una frase che fece abbastanza scalpore, cioè ovvero parlando degli omosessuali, del problema dell'omosessualità, e disse ma chi sono io per giudicare? Sì, già il problema dell'omosessualità, diciamo del tema dell'omosessualità. Del tema, diciamo, chi sono io per giudicare? E perché non ce l'ha detto al telefono? Se ce lo passavano ci avrebbe potuto ribadire anche queste poche frasi. Abbia dei problemi abbastanza grossi in questo momento da dovere... cioè dice piuttosto che intervenire in diretta su Radio 24 parlando con Manera, loro sono molto come si può dire ligi a un certo tipo di però di Sergio da Como dice chi sono io per giudicare, le parole di Papa Bergoglio sono molto emblematiche sul tema omosessualità. Va bene, grazie Sergio. Sandro dalla provincia di Aosta, eccomi qua Sandro. Io ho chiamato perché ho avuto la fortuna di conoscere la Adriana originale a cui fa riferimento Leonardo quando dice Adriana. Ma non esiste l'Adriana originale, non è vero? La smentisco subito, non esiste. La smentita di maniera. Perché? Mi dica che sono curioso. E niente, la conosco da un paio d'anni, ma solamente da un mese ho saputo essere lei la causa di... Ma lei la smentisce. No, le spiego come nacque quella cosa. Perché io nella prima puntata che feci, dove facevo l'ipnotizzato a Zelig, avevo una battuta sul film Rocky e dentro quella battuta citavo anche Adriana. Poi le persone per strada ripetevano quella cosa e diventò un tormentone. Perché lei mi dice così? Insomma, Sandro, c'è un'Adriana millantatrice che dice che è lei la musa ispiratrice dell'Adriana. È millantatrice perché ha raccontato delle cose, insomma, anche con dei dettagli dove si sono conosciuti, come frequenta ancora adesso Zelig abbastanza spesso, ma per carità, io ritengo che sia attenzione, una sfida Lucchetti clamorosa, non ci sarebbe bisogno, Leonardo Manera devi confessare. No, sarei curioso di sapere chi è questa, ma abita ad Aosta o abita altrove? No, dai Leo, abita a Milano, lo sai, è di Lecce. Ah, ho capito, ma non è lei, sì, ho capito a chi si riferisce, ecco, una mia amica, sì, con, sì, come certo. Come al solito, memoria da pesciolino, no, rosso, adesso, ho capito. Adesso inizia a dire, ma certo, sì, no, la conosco. È una ragazza con la quale io ci ho provato e non c'è stato mai nulla, perché lei mi si è sempre negata, ma non la conobbi, a Lecce proprio. Va bene, raccontiamo questa storia, Mara. Eravamo andati a fare uno Zelig Show a Lecce, al Cavallino, che è una cava che c'è vicino a Lecce. Tra le altre c'era anche questa Adriana, che era lì in qualità non di host. Non dire questa Adriana, come se c'era Adriana. C'era anche Adriana, che era lì a fare la hostess in questa serata. Dopo lo spettacolo, io, un altro comico, che adesso non cito, lei e un'altra sua amica andammo insieme sulla spiaggia di San Cataldo, che è la spiaggia che c'è vicino a Lecce. L'altro comico ebbe un approccio fisico con quell'altra ragazza. Anch'io ci provai con Adriana, ma con risultati pari allo zero. Quindi tornai da San Cataldo e andai a dormire in quell'hotel che c'è all'ingresso di Lecce, senza aver portato a casa nessun risultato. Va bene. Traffico. Hai un libretto smart? Allora rendi i tuoi risparmi dei super risparmi. Attiva online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. E se non ho il libretto smart? È facile. Prima ne apri uno, prima attivi l'offerta. E a scadenza riceverai un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. Puoi farlo solo online su poste.it o da app BancoPosta. Più comodo di così. I buoni e libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. 1, nessuno, 100 Milan. I'll be riding shotgun underneath. Siamo qui, signori, 10 e 50 minuti, abbiamo svelato anche il mistero di Adriana. Questa è la giornata degli scoop. Certo, avessimo parlato col Papa, sarebbe stato uno scoop un po' più importante. In ogni caso, è arrivato buongiorno il professor. Buongiorno a tutti, saluto. A proposito di Papa, il professor Janssen, le hanno detto che lei parla. Qualche volta mi hanno fatto notare questa piccola somiglianza. Sì. Naturalmente non osso paragonarmi al Santo Padre. No, no. Anche perché lei invece fa un altro lavoro. Io sono psicologo e ho fondato il mio metodo psicologico di stare bene, sì. Stare bene. Psicologo esattamente. Psicologo. E il mio metodo psicologico è quello di stare bene, sì. Perché è inutile macerarsi la mente con troppi pensieri quando l'unico pensiero da fare utile è cosa mi può far stare bene. Sì. E noi dobbiamo agire sulla base di questo pensiero senza preoccuparci delle conseguenze. Perché da un momento all'altro tutto può cambiare. Sì. Per esempio, Alessandro Milan oggi lavora a Radio 24. E domani? Anche potrebbe non essere più. Magari anche a Manera. Anche Manera. Magari arriva un altro giornalista migliore di Alessandro Milan e prende il suo posto. Può allora essere. Io dico, caro Alessandro, non preoccuparti di come va sul posto del lavoro, perché potrebbe anche non essere il tuo lavoro definitivo. Sì. Dovresti trovare altri lavori veri, più pesanti, che ti facciano stancare fisicamente. Grazie. Ecco. Grazie. E anche pagati meno. Bene. Perciò ogni cosa va relativizzata, ogni problema va visto in modo relativo. Oggi mi voglio occupare di un argomento importante che ne avete parlato anche voi, l'educazione dei figli. Bene, importante. Sì. Oggi viviamo in una società dove si dà tanta importanza al denaro, al successo, al fatto che bisogna essere ricchi a tutti i costi. Ebbene, io dico che questa preoccupazione è giusta. I figli vanno educati ribadendo tutti i giorni che l'unica cosa che veramente dà la felicità è il denaro. Perché col denaro puoi comprare case di lusso, puoi permetterti vacanze da sogno, puoi avere rapporti sessuali a pagamento con escort, gigolo, ma senza preoccuparti di fare le coccole alla fine, no? Quando hai finito c'è quel momento obbligato delle coccole che è noioso, fastidioso. E invece se hai soldi per pagare, metti i soldi sul comodino e sei tranquillo a posto. E tante femmine che parla troppo, la relazione diventa complicata. E allora diventare ricchi ti può far evitare tutti questi problemi. il primo valore che bisogna insegnare ai figli, sì, è perseguire la ricchezza. I soldi. Ma tu la ricchezza è la unica cosa che ti può far stare bene. L'ha detto una volta, è l'unica cosa che dà la libertà. Ricordi che una volta lo disse anche la Daniela Santanchè, se non sbaglio, no? Sì, sì. E allora di domenica, non portate i vostri figli al parco o alla messa, portateli a fare un giro davanti a una banca, portateli a contare dei soldi in contanti, portateli a fare una gita a vedere anche solo da fuori la casa delle persone benestanti. Oh. Questo professor Janssen è la prima regola. Spingetela a fare amicizia con persone straricche, a fidanzarsi con persone ricche, non l'amore, è il denaro. Oh. E spingetela a fare qualcosa pur di accumulare denaro. Allora va bene il lavoro per guadagnare, ma va ancora meglio qualche piccola truffa. Addirittura! Perché con qualche piccola truffa, se è piccola, è difficile finire in carcere. E immaginando qualche piccola truffa, il bambino aguzza l'ingegno è da grande e poi potrà fare una grande truffa. Insomma, se ci tenete, lasciatemelo dire, ecco, spingete i figli nell'accumulazione del denaro. Se ci tenete che da grandi i vostri piccoli siano veramente felici. Vabbè, perché lasciatemelo dire, non per, condivido, per esempio, professore, un personaggio come Gianluca Vacchi, lo conosci? Sì, come no. Tu hai tutto con tatuato, magari non è, diciamo, una cima dal punto di vista intellettuale, non lo so, ma tutti i soldi che ha sicuramente è più felice di tanti professoroni che insegnano all'università. Il denaro, ragazzi, incredibile. Perciò ai vostri figli dite, se volete la loro felicità, ricordati, figlio mio, che nella vita ci sono tre cose che contano: tre. I soldi, il denaro, le banconote fruscianti. D'altra parte, se siamo a Radio 24, che è la radio economica di Confindustria, vuol dire che anche voi condividete i miei pensieri. Ma non è vero, io no, personalmente. E invece, se i vostri figli hanno altri ideali, e libertà, giustizia, dategli uno schiaffo sul copino. E ditegli: questo è lo schiaffo del professor Janssen per la tua futura concreta felicità che passa attraverso il denaro. Se anche voi condividete la filosofia del professor Janssen, psicologo. Vabbè. Ed è una filosofia condivisa da tutti quelli del Peter Bescapè, Filippo Auregi, non ne parliamo, che parla solo del denaro, alle tasche imbottite di banconote tenute insieme con l'elastico. Per non parlare di Mauro Meazza, cuscino imbottito di banconote ancora dei vecchi lire. Grazie professore, ci troviamo domani alle 9. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.